Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati dunque a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che ritorna alla giornata del 14 febbraio dell'anno scorso, quando l'Università Catanese promosse il convegno Altre 100 di queste favole, incontri e riflessioni sulla figura e l'opera di Gianni Rodari ad un secolo dalla nascita, 1920-2020. Molti e tanti autorevoli erano gli interventi in quell'occasione, che vengono in qualche modo raccolti da questo volume coordinato dal professore Terio Todaro, che il volume si chiama Altre 100 di queste favole, incontri e riflessioni sulla figura e l'opera di Gianni Rodari a un secolo dalla nascita. E sulla figura di Rodari e sul senso di questo volume abbiamo interpellato con Moreno Moretti lo stesso professor Letterio. Ascoltiamo. Professor Todaro, lei ha curato un saggio intorno alla figura di Gianni Rodari, dove sono raccolte le riflessioni di alcuni dei più importanti studiosi di Rodari, con l'obiettivo, lei scrive nella sua introduzione, di mettere a disposizione degli interessati la conoscenza del fenomeno Rodari. Perché pensa, ritiene che Rodari sia un caso? Devo dire che io ho avuto la fortuna, nella università dove insegno, a Catania, di organizzare un convegno già a gennaio del 2020. In effetti questo volume nasce anche come esito dei lavori di convegno che si sono svolti in quell'occasione. E perché appunto? Perché rimettere al centro la figura di Gianni Rodari? Perché naturalmente a 100 anni dalla nascita noi possiamo avere la possibilità di guardare a questo straordinario personaggio che è stato, come dire, un protagonista della cultura dell'educazione in Italia nel corso del Novecento, appunto con maggiore serenità, anche con una serenità, come dire, che appartiene alla possibilità di guardare in maniera più distaccata e anche con maggiore possibilità di riflessione critica a tutta anche la stagione, sai, complessa in cui naturalmente Rodari venne a operare come intellettuale importante della sinistra italiana nel lungo dopoguerra italiano fino alla sua purtroppo prematura scomparsa che avvenne all'inizio degli anni Ottanta. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato. Per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato qualcuno, non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo. Chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se il mondo può far male, non ho mai smesso di lottare. È una regola che cambia tutto l'universo. Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso. E in questa lacrima infinita c'è tutto il senso della vita. Quindi Rodari è un caso letterario, nel senso, per quello che riguarda la lettura dell'infanzia, ma anche una sorta di rivoluzione proprio culturale per quello che riguarda la pedagogia e l'educazione. Intanto in Italia noi siamo partiti con uno svantaggio. Lo svantaggio è stato quello di considerare così in linea generale la letteratura per l'infanzia come un ambito un po' periferico, secondario, di poco interesse. Soltanto negli ultimi decenni siamo riusciti a costruire una consapevolezza dell'importanza invece che questo spazio di produzione letteraria e culturale ha per diverse ragioni, per la ragione naturalmente che riguarda la natura della creazione letteraria, ma anche per la prossimità che naturalmente questo tipo di produzione letteraria ha con l'animazione di una cultura di tipo pedagogico. Se noi andiamo a riprendere, a leggere e a confrontarci con una figura così importante come quella di Gianni Rodari e ritroveremo non soltanto appunto un personaggio che è riuscito a compiere una vera e propria rivoluzione nell'ambito della scrittura per l'infanzia in Italia. È stato anche un personaggio, e qui credo che questo libro che ho condotto a pubblicazione come curatore permette di apprezzare questa apertura di Gianni Rodari, intellettuale, impegnato nel tentativo, attraverso anche la sua scrittura per l'infanzia, di intervenire in un dibattito molto più ampio che riguardava i temi dell'educazione, il rapporto educazione-società, una visione anche diversa dell'infanzia, e sono tutti temi appunto che meritano di essere ripresi con attenzione anche come confronto appunto con un lascito di un messaggio culturale che vale la pena sempre riprendere, non lasciare cadere nell'oblio della memoria del secolo trascorso, invece appunto guadagnare come un patrimonio da portare avanti anche oggi per le questioni che riguardano la formazione e l'infanzia oggi. Eppure Rodari non è sempre stato così conosciuto ed amato, cioè ha faticato comunque ad emergere e per tanto tempo è stato utilizzato e un po' anche smembrato, quindi sono state raccolte i suoi racconti e magari inseriti nei libri scolastici, ma in modo abbastanza disorganizzato. E la riscoperta di un Rodari invece come, chiamiamolo, un intellettuale a tutto tondo è stata successiva e anche come scrittore per ragazzi. Certamente, diciamo che naturalmente la vicenda che riguarda la diffusione, anche l'accezione della letteratura per l'infanzia di Rodari, anche in Italia, nella sua Italia, presenta un percorso complesso. Naturalmente Rodari rappresenta una figura molto ben caratterizzata, è stato un intellettuale che ha partecipato con delle scelte ideologiche, di valore, di riferimento culturale molto ben chiare, è stato uno dei personaggi appunto che ha dato anima anche a una cultura dell'educazione all'interno della sinistra italiana, è stato un militante del Partito Comunista Italiano e fin quando c'è stata una sovrapposizione rigida della figura di Rodari con l'idea di un intellettuale di partito, intellettuale legato a uno schieramento, c'è stata come al solito la difficoltà di capirne quanto invece il suo messaggio potesse valere appunto per una riflessione che andava al di là delle barriere di tipo ideologico, dei confini di tipo ideologico, dei territori, come dire, segmentati dell'ideologia. Allora nel tempo invece si è letto probabilmente appunto il fatto che noi ci troviamo in una situazione post-ideologica che ci permette di guardare con più serenità al complesso lavoro di quegli anni e ci permette di apprezzare appunto Rodari che riguarda un'elaborazione di una pedagogia di tipo critico. Credo che sia molto interessante per esempio il lavoro che è stato condotto recentemente per legare la figura di Gianni Rodari a quella di tanti altri protagonisti che noi abbiamo avuto in Italia nel corso degli anni 60-70 per un cambiamento radicale del modo di pensare l'educazione che prevedesse appunto il tentativo, una visione di sviluppare un'idea di costruzione di un pensiero autonomo, di un pensiero critico, di un pensiero divergente. Queste sono un po' le note tipiche di quella che possiamo chiamare una pedagogia di Rodari, laddove appunto anche la letteratura per l'infanzia, il testo che fa piacere leggere per le sue note umoristiche, divertenti, surreali, non è fine a se stesso, ma permette appunto sempre di spronare la capacità di pensare diversamente, ecco, di elaborare un pensiero diverso rispetto a un pensiero appunto conformista, un pensiero ordinario, un pensiero che si muove sui binari della regolarità. E questa è stata la grande lezione pedagogica di Gianni Rodari, che non smette, come dire, mai di spronarci, di rappresentare per noi un elemento di grande considerazione. Sciarpe di lana, guantoni felpati, più che il sapore, il colore del tè, ecco le cose che piacciono a me. Torte di mele, biscotti croccanti, bianchi vapori dai treni sbuffanti, quando ti portano a letto il caffè, ecco le cose che piacciono a me. Tanti vestiti a vivaci colori, quando ricevi il regalo dei fiori, le camicette di bianco picchè, ecco le cose che piacciono a me. Infelice e non so il perché, io penso alle cose che amo di più e torna il sereno per me. Il miagolare che fanno i gattini ed il sorriso di tutti i bambini, la cioccolata che dentro è bignè, ecco le cose che piacciono a me. Appena comprato un fazzoletto che sa di bucato, una gallina che fa coccodè, ecco le cose che piacciono a me. Paura! Biondi capelli su un viso abbronzato, pane arrostito con burro spalmato, quando si ride ma senza perché, ecco le cose che piacciono a me. Se son triste. Professor Todaro, però Rodari non era solo, lei lo ha accennato, è comunque intellettuale inserito in un contesto storico del dopoguerra molto particolare, in cui c'era appunto il desiderio e lo studio di una pedagogia volta alla democrazia dopo anni di fascismo, che non vestiva solamente il pensiero di Rodari o anche il Partito Comunista o la sinistra. Quindi Rodari lo possiamo anche un po' togliere dal mito, appunto, come uomo solo geniale che rivoluziona i modelli educativi? Io credo che mi riferivo un po' a delle analisi e letture storiche recenti che hanno permesso, ecco, di collocare Gianni Rodari all'interno di un movimento naturalmente più consistente, naturalmente il legame più taneo da cogliere dal punto di vista di una costellazione della pedagogia democratica in movimento in quegli anni. Io direi di, per esempio, riferirci a una figura di cui quest'anno ricorre anche per lui il centenario, come Mario Lodi. E allora ci troviamo appunto all'interno di una traiettoria del movimento di cooperazione educativa, di un movimento che cerca appunto di democratizzare l'idea della scuola, della pedagogia, della didattica, attraverso un'idea che valorizza l'attività che si genera spontaneamente, che parte dal basso, che parte in maniera creativa all'interno dei luoghi della formazione della classe pensata come una comunità. Ecco, quella grande pedagogia che è a 50 anni di distanza, se noi teniamo come riferimento gli anni 70 come gli anni in cui quella pedagogia venne organicamente fuori per fermare questo tipo di principi, ecco, lì troviamo un grande laboratorio di novità, di spunti, e che sono appunto essenziali. Io li considero essenziali se penso per esempio alla formazione degli insegnanti oggi. Non si può fare a meno in qualche modo di ripartire da quel patrimonio. Quello è un patrimonio che noi abbiamo come un patrimonio nobile della nostra cultura pedagogica in Italia. Ragion per cui affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la papa papa, al colpo popo popo popo pomodoro, viva la papa papa, che un capo popo popo popo lavoro, viva la papa papa, col popo pomodoro. e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa, pappa, con lo po, po, po, po, po, po, pomodoro. Viva la pappa, pappa, che un capo po, po, po, po, po, lavoro. Viva la pappa, pappa, pappa, po, po, po. E dopo il professor Eterio Todaro e il suo testo Gianni Rodari, incontri e riflessioni a 100 anni dalla nascita, passiamo a un altro volume. Questa volta il titolo è Avanti Tutta ed è promosso, scritto da Giulia Risari con le illustrazioni di Daniela Iridemurgia, che ci parla anche della noia. E Giulia Risari viene intervistata per gli Ucali dalla nostra Simona Sagone. Ascoltiamo. La noia non è un disvalore, è proprio una situazione di apparente stallo nel quale in realtà tante nuove idee, tante prospettive si realizzano. E per molti è vista come uno spauracchio, no? Qualcosa da combattere, tra l'altro con attività idiote che bloccano la formazione di queste idee. Tantissimi psicologi, non solo dell'infanzia, ma psicologi tout court, hanno sottolineato l'importanza di questi momenti in cui sembra non esserci pensiero, in realtà si accumulano e si condensano emozioni, idee e quant'altro. Quindi questo è come... immaginiamolo come il momento di stasi prima del balzo, no? Una sorta di rincorsa. La noia è una rincorsa prima dell'azione. Se noi non lasciamo questo tempo a disposizione dei bambini, avremo delle persone nevrotiche che continuano ad accumulare in una sorta di fame insaziabile un'attività insensata dietro l'altra. Perché si dice che bimbe e bimbi stanno soffrendo così tanto a stare a casa? Siamo così abituati ad avere le immagini già fatte che non sappiamo più giocare a trasformare gli oggetti in cose straordinarie. Senz'altro, perché ci spaventiamo di fronte alla noia. Noi adulti, prima di tutto, non la sappiamo riscoprire in noi e a maggior ragione nei bambini la vediamo come una sorta di apatia, di melanconia e non sappiamo riscoprire il valore straordinario, immaginifico, il potere delle piccole cose, no? Non so se avete mai provato a giocare con un cucciolo di animale. Molte volte sapete che sono stati pensati giochini apposta, appositamente studiati, eccetera. Invece poi il cucciolo sceglie la cosa più semplice, ma la stessa cosa capita col cucciolo d'uomo. Siamo lì con complesse scatole di costruzioni, quando in realtà anche i giochi o i più semplici sono gli oggetti rotti o oggetti di uso comune che però vengono decontestualizzati e vengono riscoperti in un'altra funzione, no? Basta per esempio gonfiare anche semplicemente con l'alito un guanto ed ecco che si trasforma in un personaggio. In questo libro sono fondamentali poi le illustrazioni bellissime di Daniela Iridemurgia. Quando le hai viste, che cosa ti ha colpito? Come puoi descriverle agli ascoltatori che non le possono vedere in radio? Quando le ho ricevute ho provato un'emozione fortissima, ho provato proprio la sensazione che Daniela fosse entrata nel testo e avesse capito completamente ogni singola parola e ogni immagine. Daniela ha la capacità di avere qualche cosa di raffinatissimo ma molto prossimo, molto vicino alle persone. Non occorre avere appunto una laurea in storia dell'arte per decodificare le sue immagini, però le sue immagini sono pregnanti e sono eleganti, sono metaforiche, alludono all'altro, ma sono anche qui presenti molto vicine a chi legge e portano sempre un gradino più su, che è proprio l'idea di questo libro. L'idea è proprio di arrampicarsi su dei trampoli virtualmente infiniti e scoprire il mondo da una prospettiva diversa, condividere questo viaggio con vari personaggi incontrati lungo la strada, quindi perdere la diffidenza nei confronti di chi non si conosce e costituire così una sorta di strano equipaggio che va tutto alla ricerca di qualche cosa di nuovo, di qualcosa di eccezionale. Questo può accadere, no? Delle volte, se giochiamo un po' con l'immaginazione, possiamo pensarlo quando siamo in un autobus, che siamo un equipaggio tutto unito con possiamo comunque pensarlo in maniera anche più profonda quando ci mettiamo nei panni degli altri e ci vediamo tutti quanti come una grande comunità che sta cercando, per esempio in questo momento, di arrivare oltre questo periodo così brutto, no? Ma siamo tutti insieme in questo viaggio, nessuno è da solo. La diffidenza verso l'altro, quanto ci vorrà secondo te quando tutto questo periodo appunto finirà per riconquistare la fiducia di star vicino a un'altra persona senza pensare si è avvicinato troppo, mi starà attaccando qualcosa? Ma io sono ottimista perché sono convinta che questa distanziazione forzata, sia pure necessaria, venga vissuta come un grosso sacrificio, una privazione, no? Soprattutto da parte dei bambini, ma anche da parte degli adulti. Io non vedo l'ora di poter abbracciare uno sconosciuto per strada senza paura, no? E quindi io credo che in realtà questa sia una parentesi che non sta facendo altro che alimentare il grosso desiderio di vicinanza negli altri. Gli esseri umani sono degli animali sociali e hanno bisogno di questo contatto, no? Quindi chissà che questo periodo, al contrario di quello che pensiamo, non faccia aumentare il desiderio di stare con gli altri. Nella vita ben vengano gli assembramenti, diciamo proprio adesso che non li possiamo fare, però questo deve alimentare il nostro desiderio che questo periodo finisca e che si torni a una normalità ancora più carica di desiderio, no? Cioè adesso abbiamo capito quanto sono importanti gli altri, quanto ci mancano, sì, nella vita di tutti i giorni. Cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Love you, devo dire a mio amore, I will love you, e cercate il suono a voi, cercate di abbracciare tutto il mondo come noi. Se lo vuoi, che ti dà un orizzonte che non hai, cause we love you, che vuol dire amiamo voi, I will love you, e cercate intorno a voi, cause we love you, e un fiore vi dirà, that we love you, e cercate intorno a voi. Cause we love you. See, we love you. Yes, we love you. See, we love you. Yes, we love you. Qualche giorno bastardo lo passo da me, rintanato e rinchiuso lo passo così, così stanco di tutto e di tutti chissà, questi giorni son giorni che vivo a metà, e viaggio in un mondo che forse non c'è. Tra cent'anni di libri e miei sogni da star, è un bagaglio di giochi truccati perché non mi viene la vita che voglio per me. Che fatica a nuotare in un mare di noia. Senza pinne